lucida delle bionde, oltre la cultura dello stereotipo. E buongiorno a tutti e a tutte i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici per una nuova puntata della Rivincita delle Bionde. Ai nostri microfoni, come sempre, Carlotta, cioè io, ed Erika, che però questa volta è in diretta direttamente, scusate il gioco di parole, dalle Marche. Buongiorno a te, Erika. E buongiorno Carlotta. Ebbene sì, quest'oggi sono in trasferta, diciamo così, da San Benedetto del Tronto, che è la mia città, la città dove sono nata, e perché appunto sono tornata qui per votare, per le votazioni che ci sono state ieri. E infatti possiamo dire che non è proprio una bellissima giornata per l'Italia. No, infatti andiamo di male in peggio, devo dire. Esatto. Staremo a vedere comunque quello che succede. Abbiamo appena scoperto, tra l'altro, che Renzi si è appena dimesso, quindi questa è la novità di questa mattina. Ma noi adesso facciamo un brevissimo stacco musicale e ci risentiamo fra pochissimo per addentrarci di più nella puntata. Ed eccoci rientrati sui 103.1 per una nuova biondissima puntata della Rivincita delle Bionde. Abbiamo appena ascoltato Tobacco Road dei Jefferson Airplane, grandissimo pezzo. Ma ricordo anzi che potete scriverci e contattarci al numero 333-180-9494 sia tramite WhatsApp che messaggi. Adesso invece è il momento di addentrarci appunto in questa nuova puntata. Oggi parleremo di un autore, Rudy Ghedini, e del suo nuovo libro. In questo suo ultimo lavoro lui ha deciso di parlare appunto di rivincite, quindi perfettamente in linea, in tema con il nostro programma. E adesso però forse è il caso di dire qualcosa sulla sua vita, Erika. Sì, allora possiamo dire che Rudy Ghedini è nato nel 1959 a San Giorgio di Piano, ovvero nella pianura bolognese, e dall'età di 20 anni vive a Bologna. Dopo la sua laurea in scienze politiche ha lavorato come funzionario del PCI, quindi Partito Comunista Italiano, e poi come redattore presso l'Unità. E da qui è iniziato il suo impegno sia politico ma anche proprio nel mondo del giornalismo, e infatti dal 1987 al 1995 è stato consigliere comunale della Giunta di Bologna, e dopodiché ha lavorato presso l'Agenzia Regionale di Protezione Civile e l'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna. Inoltre è stato selezionato per l'edizione di Barcellona del 1987 del Biennale dei Giovani Artisti dell'Europa Mediterranea, e ha collaborato con numerosissime riviste a partire appunto dall'Unità, che abbiamo già citato, e poi due riviste di politica e letteratura che si chiamano Opposizioni e Nunatak. Sì, esatto, hai sempre problemi con le pronunce, devo dire, comunque. Sì, esatto, non sapevo dove mettere l'accento, vabbè, diciamo Nunatak. E poi dal 95 al 2003 è stato direttore editoriale di Zero in Condotta, inoltre ha scritto per la rivista letteraria di Roberto Roversi, Rendiconti, per Linea Bianca, per il magazine online Pickwick, il settimanale Carta, e pubblicato numerosi interventi per Le Monde Diplomatique. Abbiamo anche il francese. Esatto. Quindi uno scrittore, ovviamente, è un personaggio molto molto attivo, ovviamente, sia a livello politico che a livello sportivo. Adesso invece parliamo del suo ultimo lavoro, ovvero Rivincite, lo sport che scrive la storia. Questo libro racconta appunto le storie degli atleti e delle atlete di tutti i tempi che hanno fatto scelte coraggiose e probabilmente anche scomode, e che hanno appunto scritto la storia, e che hanno anche pagato a caro prezzo il loro coraggio, ma che appunto con i loro gesti clamorosi hanno scritto capitoli indelebili della storia dello sport. Soprattutto tra i protagonisti di questo libro possiamo ricordare Tommy Smith, Muhammad Ali, Nadia Comaneci, che tra l'altro noi abbiamo portato in puntata qualche settimana fa, però noi abbiamo contattato Rudy Ghedini, quindi adesso ascoltiamo cosa ha da dirci lui. Di che argomenti tratta il suo ultimo lavoro? Rivincite è un libro che parla di sport, di storia, parla di memoria e parla di personaggi sportivi che hanno compiuto dei gesti con un forte significato politico. Come mai ha deciso di parlare appunto di rivincite di sportivi? Ma io sono convinto del fatto che lo sport è una delle più potenti narrazioni della nostra epoca. Chi ha successo nello sport molto spesso è in grado di lanciare dei segnali, dei messaggi che hanno poi un riverbero politico molto forte. Non è una novità di questi anni, anzi forse negli ultimi anni questo tipo di segnali è stato più debole. Se ricordiamo appunto agli anni 60, ricordiamo Muhammad Ali, il podio di Città del Messico nel 68, tantissimi personaggi che in quell'epoca hanno usato la loro fama, la loro notorietà, il loro potere per usare appunto lo sport e lanciare dei messaggi politici. Oggi sembrerebbe che questo fosse molto più raro, in realtà non è così, bisogna andare un po' sotto la superficie. Lei per esempio in questo libro parla anche della storia della Comaneci, in realtà lei è stata tra virgolette sfruttata dal suo successo. Sì, Nadia Comaneci ha avuto, diciamo,

Abbiamo appena ascoltato Lou Reed, anche lui ovviamente è sempre una certezza. Se volete, ricordo, farci qualche richiesta o contattarci per un saluto, lo potete fare tramite il numero 333-180-9494 via SMS o WhatsApp. Ma ritorniamo noi a Rudy e alle sue rivincite. Il nuovo libro di Rudy Gaidini parla appunto proprio di questo, di rivincite, di tutti quegli sportivi e sportive che hanno compiuto appunto delle scelte difficili, hanno fatto dei gesti clamorosi lasciando un grande segno nella società e nella storia, come per esempio appunto la Kohanechi, che ricordo abbiamo portato settimane fa appunto in puntata. Spesso lo sport è un tramite per mandare dei messaggi politici e soprattutto molte volte gli stessi atleti sono stati appunto un bersaglio di propaganda e sono stati anche sfruttati. Erika, sei sempre con noi, giusto? Sì, sono sempre qui, ti stavo ascoltando. Però purtroppo devo salutarvi perché devo andare a cucinare. Ecco, lei che può mangiare, vada. Esattamente. Però io ovviamente vi do appuntamento a lunedì prossimo, poi lo ribadirà anche Carlotta a fine puntata, sempre per una nuova puntata. E niente, auguro un in bocca al lupo a tutti gli italiani per in questa tragedia. Ecco. Stiamo vivendo una tragedia molto comica, però vabbè. Uno psicodramma. Va bene, allora noi ti salutiamo, ti ringraziamo per essere stata con noi per questi 15 minuti e ricordiamo che Erika ritornerà in territorio bolognese stasera o domani, non mi ricordo. Domani. Va bene. Bene, grazie a te Carlotta, un saluto a tutti. Rimanete sintonizzati voi. Ciao Erika. Ed eccoci qua invece noi, sempre per la rivincita delle bionde, sempre sui 103.1 di Radio Città Fujiko. Abbiamo appunto parlato, anzi Rudy Gaidini ci ha parlato del suo ultimo lavoro e adesso invece andiamo ad ascoltare la seconda parte di intervista in cui ci racconta e ci spiega perché ha scritto e ha parlato della rivincita di questi atleti e quindi dei suoi obiettivi. Quali sono gli obiettivi del suo lavoro? Cosa vorrebbe suscitare, sollecitare nel pubblico? Innanzitutto tengo a precisare che lo stile è narrativo, cioè non è un saggio, è una collana di 300 quasi storie che appunto collegano fra loro personaggi molto diversi, alcuni notissimi. Penso che tutti sappiano appunto della Kohanechi, di Gino Bartali, di Muhammad Ali, di Garrincha, oppure di Pep Guardiola, no? Che pochi mesi fa ha fatto un discorso per l'indipendenza della Catalogna. Molti meno sanno delle vicende di altri personaggi sportivi, da Jim Thorpe a Pat Tillman, a Cathy Freeman, a Alice Migliai. In particolare le donne sono molto sottorappresentate in questo universo. Io ho cercato nel libro invece di evocare molte di queste storie. Un secondo motivo è per sottolineare l'estrema varietà delle motivazioni che spingono gli sportivi a usare appunto la loro fama, la loro notorietà, la loro visibilità pubblica per lanciare dei segnali, perché queste motivazioni sono davvero molto diverse e anche contraddittorie. Ce ne sono di direttamente politiche, di religiose, di sessuali, l'emancipazione femminile ha usato lo sport ripetutamente, e semplicemente di etiche. Infine vorrei sollecitare un dubbio nel lettore, il dubbio è quello a cui prima accennavo, cioè per tanti decenni ci siamo abituati a pensare allo sport come a una vittima della politica. Se pensiamo alle Olimpiadi di Berlino dei nazisti, oppure più di recente le Olimpiadi di Pechino, ma se pensiamo anche a come sono assegnati i mondiali di calcio in paesi con la democrazia hanno veramente poco a che fare. Sempre più spesso è lo sport a scegliere anche di usare la politica anziché di essere usato dalla politica. i Led Zeppelin ci danno un po' di carica per affrontare questo atipico lunedì e triste lunedì, e noi invece ritorniamo a parlare appunto di Rudy Ghedini e il suo ultimo lavoro. Gli obiettivi di Rudy quindi non sono solo raccontare storie avvincenti, sapendo che ovviamente tutti conoscono la vita e la vicenda di Muhammad Ali, per esempio, o Gino Bartoli o Pepe Guardiola, ma anche raccontare le storie di quegli atleti che nessuno conosce, nessuno sa effettivamente quello che hanno passato, come per esempio Jim Thorpe, Cathy Freeman e così via. E poi ha voluto anche mostrare le molteplici motivazioni, le spiegazioni politiche, religiose, sessuali, etiche che hanno portato, hanno spinto questi personaggi dello sport a prendere posizione pagando appunto un prezzo molto caro. E poi, secondo me la cosa anche più importante, ha voluto sollecitare nel lettore appunto il dubbio, una domanda, che qualcosa sia cambiato, anzi che la situazione si sia addirittura capovolta. Cioè, un tempo era lo sport ad aver bisogno appunto della politica, che appunto lo strumentalizzava per i suoi fini. Oggi invece appare proprio il contrario: lo sport impone le sue regole, e dallo sport emergono infatti personaggi in grado di proporsi come classe dirigente. Ma adesso ricordiamo anche che Rudy ha collaborato e ha scritto e prodotto anche dei documentari, ha collaborato insieme a Luca Carmignani e Luca Tronchetti per la biografia Simone Si Nasce, Tre vite per il calcio. Quindi ascoltiamo l'ultima parte di intervista in cui racconta un po' di sé. Sono previsti incontri con lei? Ma io proverei a presentare il libro anche a Bologna, mi è già capitato di farlo altrove, lo farò sicuramente anche in questa città, anche se non so dire in questo momento quando e con chi. Mi farebbe certamente piacere, perché so che sono argomenti che poi suscitano molta discussione. È chiaro che tutti noi viviamo lo sport in modi molto emotivi, molti di noi sono tifosi, molti di noi sono affascinati comunque da questo mondo, perché, ripeto, è un mondo in cui chi ha successo è comunque un esempio per tutti, perché riuscire a ottenere successo nello sport vuol dire avere una disciplina, avere veicolato tante ore di allenamento in vista magari di pochi secondi o pochi minuti di un'esibizione che accade una volta ogni 4 anni, per dire. E quindi abbiamo molta ammirazione per i personaggi sportivi. Molto spesso i personaggi sportivi, in particolare nei confronti dei giovani, sono autentici esempi, cioè i giovani li guardano per poterli imitare. Però poi c'è un altro aspetto che secondo me è ancora più interessante. Oggi il CIO e la FIFA, e cioè le più grandi autorità sportive, quelle che si occupano di Olimpiadi e di Mondiali di calcio, le massime organizzazioni sportive del mondo, hanno più paesi aderenti di quanti non ne abbia l'ONU. E quindi questo fa capire come intorno allo sport anche certe relazioni politiche, anche certe relazioni diplomatiche, le ultime che abbiamo visto poche settimane fa tra le due Coree, che sembravano un passo dalla guerra e alla fine hanno sfilato insieme le Olimpiadi invernali. Ecco, anche le relazioni politiche, anche le relazioni diplomatiche attraverso lo sport possono trovare un canale molto più efficace di quanto non avvenga purtroppo nei canali ufficiali come appunto l'ONU. Lei ha anche collaborato per vari cortometraggi, sceneggiature? Sì. Sì, in passato mi è capitato di fare alcune operazioni audiovisive, chiamiamole così, una direttamente su Bologna, qualcuno dei nostri ascoltatori ricorderà senz'altro il 1999 e che cosa ha rappresentato per questa città l'elezione al Comune di Bologna nel 99. In quell'occasione, assieme ad altri amici, realizzammo un documentario su come in qualche modo finiva una storia a Bologna nel 99. Con 10 anni di ritardo sul muro di Berlino, anche a Bologna cadeva un muro e vennero a parlarne giornali della Nuova Zelanda, dell'Australia, tutte le parti del mondo. Tale era lo stupore per quello che stava accadendo. Un altro documentario lo realizzai assieme ad alcuni amici, anche in questo caso riferito a un grave incidente sul lavoro, forse tuttora il più grave incidente sul lavoro mai accaduto in Italia. Accade nel porto di Ravenna ormai 30 anni fa, a marzo, quando alcuni lavoratori morirono nella stiva di una nave asfissiati dai gas che loro stessi avevano prodotto, visto che lavoravano al buio e senza sapere assolutamente quello che stavano facendo. Erano a volte persino al primo giorno di lavoro. Ecco, queste sono le due esperienze particolari. Più di recente ce n'è una terza che, diciamo, è di altro tono, di altro tipo. Ho collaborato al film in cui si racconta la biografia umana e sportiva di Xavier Zanetti, il capitano dell'Inter che ha vinto il triplete. We'll be right back. Ed eccoci ritornati per la rivincita delle bionde. Io ringrazio intanto Erika che, nonostante non sia fisicamente a Bologna, è riuscita comunque ad essere qui con noi e a darci il suo grande contributo. Ringrazio anche Rudy Ghedini che, appunto, tramite la scrittura cerca di dare voce a quelle storie di rivincite spesso cadute nell'oblio, dimenticate. Noi invece siamo giunti alla fine di questa nuovissima puntata della Rivincita, ma prima di salutarci vi lancio la pillola del giorno. Allora, quella di oggi è un film che vi consigliamo, che si chiama Lezione di sogni, la regia di Sebastian Grobler. Questo film è ambientato fine 800 e parla appunto di un insegnante, Konrad Koch, che arriva in una scuola tedesca per insegnare l'inglese. Per attirare l'attenzione dei suoi alunni, scusate, insegnerà loro a giocare a calcio parlando in inglese. Questo gioco ovviamente avrà lo scopo di far dimenticare ai ragazzi le differenze sociali, la dura disciplina del sistema educativo tedesco dell'epoca, e diventerà col tempo una grande passione per tutti, anche se i genitori degli alunni non erano e non sono ovviamente molto d'accordo e impediranno continuamente ai ragazzi di giocare. Non vi svelo ovviamente il finale, quindi vi consiglio di andarlo a vedere. E invece noi adesso ci salutiamo. Ricordo che potete seguirci sulle nostre pagine social, come per esempio Facebook e Instagram. E niente, vi auguro una buona giornata, spero che vada a finire meglio di come non sia per quanto riguarda il nostro governo, e vi diamo appuntamento a lunedì prossimo. Altra novità: da lunedì prossimo il programma non sarà più di mezz'ora ma di un'ora, quindi rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze. Buona giornata a tutti.